Voci in scena di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola, un nuovo appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti della musica, del cinema, della cultura. Si innamora della musica e del pianoforte all'età di 4 anni. Sua madre è la prima insegnante. Studia organo e composizione quando a 13 anni si imbatte in un disco di Bill Evans che gli cambia la vita. Durante l'adolescenza si avvicina al linguaggio del jazz e allo studio dell'improvvisazione. Il primo concerto da solista a 16 anni, la prima commissione come compositore a 22. Da allora scrive balletti, opere liriche, musiche di scena, musiche per solisti e orchestre e porta in prima persona la sua musica in giro per il mondo. Stiamo parlando di e con Cesare Picco. Per fortuna non si saprebbe in che scaffale mettermi. In realtà è un atteggiamento, devo dire, ormai dopo 25 anni di concerti e di peregrinazioni in ogni ambito musicale, è ormai una prassi completamente naturale. Per me la musica è fatta del desiderio di ricercare, di sperimentare e di sapere che in realtà da Jimi Hendrix a Bach, ai Beatles, a Stravinsky in realtà c'è un territorio comune ed è questo che vorrei esplorare. Venticinque anni di concerti, eppure i quarantenni nel mondo di oggi sono bambini. Guarda, non sai quanto io mal sopporti questa cosa. È stranissimo questo paese, da una parte sappiamo una gerontocrazia e forse per questo si considerano giovani registi o giovani musicisti i 40-50 anni di oggi. No, non mi piace questo atteggiamento, penso che mai come in questo momento si debba pensare veramente a dare un peso diverso alla produzione artistica, ad avere il coraggio di sfondare dei luoghi comuni che ormai hanno portato alla rovina musicale. Non so se è vero che tu hai detto questa frase, però io te la leggo. Penso che la leggerezza sia il primo passo nella ricerca della profondità, è vero? Sì, mi riconosco, è probabile, sì, penso di averla detta io. La leggerezza è quella che io avverto nei grandi che mi ispirano, da Mozart, che secondo me è l'esempio primo di leggerezza. Saper essere leggeri, saper affrontare non solo il percorso musicale ma anche la propria vita con leggerezza è senz'altro un passo molto importante per ognuno di noi. Io ti ho sentito con Giovanni Solli, ma ti sei messo a suonare Vittina Crozza, hai preso Jamiroquai e gli hai rifatto King for a Day. Sì. Tutto vale, tutto è musica, non ci sono più quegli steccati di un tempo di cui soffrivano gli accademici? Io ho una personale convinzione, io se penso alla storia della musica mi viene in mente un'immagine che tutti forse releghiamo ai nostri anni dell'infanzia. Hai presente i Luna Park, se esistono ancora, e quei carrozzoni con i giochi di specchi, no? Cioè con gli specchi magici, tu entravi e ti vedevi in uno più grasso, uno più magro, ecco, secondo me la storia della musica è questo gioco di specchi, cioè in realtà se riusciamo a posizionare bene gli specchi, noi riusciamo partendo dal passato a riflettere la musica nel futuro e questo gioco di specchi vale per tutto, la musica del futuro è già tra noi, dobbiamo essere senz'altro curiosi nel volerla cercare, non ci possiamo accontentare dei primi 10 libri o dei primi 10 dischi in classifica, le sorprese, lo sai quando un libro ti cambia la vita, un disco ti cambia la vita, in genere sono cose che vai a scovare, che magari sono sotto una pila di altre cose e poi ti cambiano la vita. Secondo me collaborare appunto con Sollima, Bersani o Giorgia o Stockhausen per me ha lo stesso peso se c'è da parte di tutti il desiderio di confrontarsi, di portare il proprio bagaglio e di incontrarsi in un altro, in un terzo punto. Allora così esiste veramente lo scambio artistico. Mi piace il fatto che tu abbia deciso di comunicare anche attraverso la parola scritta, anche attraverso i post, i video post sul blog del sì. Post appunto. Sì. Tante cose da raccontare, perché tanta voglia di comunicare? Ma io non sono una vittima della rete in questo senso, cioè devo dire che parto dal presupposto di voler comunicare un qualcosa, di volerla condividere quando mi rendo conto di così che possa esistere un minimo di peso specifico in quello che posso dire, in qualche scoperta, in qualche piccolo ragionamento. In questo la rete è oggettivamente un tesoro straordinario. È una realtà quotidiana che cambia e sta cambiando ora dopo ora la nostra realtà. È molto difficile da affrontare, penso che per i curiosi di musica, per chi ha voglia di saperne di più, è senz'altro un mezzo straordinario. Un'arma a doppio taglio, perché da una parte c'è lo scaricamento illegale, del quale tu hai parlato proprio nel tuo blog, dall'altra il fatto che ad esempio si diffonda viralmente quello che tu hai fatto ad esempio per il Giappone. Un video straordinario che in qualche giorno diventò famosissimo e che aiutò a porre l'attenzione su un momento molto difficile. Vedi, questi sono altri miracoli, cioè in positivo e in negativo è senz'altro uno strumento straordinario. L'esempio che tu hai fatto è questo: io pochi giorni dopo l'11 marzo di quest'anno, che è appunto la data della terribile sciagura naturale in Giappone, ho semplicemente fatto quello che da musicista sentivo di dover fare, cioè di dedicare un brano, di costruirlo e di inviarlo in Giappone. In realtà in pochissimo tempo è stato trasmesso ovunque, è diventato una sorta di piccolo punto di riferimento al quale altri musicisti giapponesi hanno voluto collaborare per una serie di concerti, e sarà solo i concerti che mi ha fatto in Giappone a giugno sono solo un primo passo, perché ci ritorno il prossimo autunno con altre collaborazioni. E questo è l'esempio, sì, è chiaro che quando tu puoi toccare con mano quotidianamente il fatto che a 10.000 km di distanza ci sia qualcuno che, ascoltando la tua musica, si può comunque sentire forse più sollevato o comunque aiutato dal punto di vista spirituale, è senz'altro una fortuna, e la rete in questo caso ci dà questa opportunità. Il buio è un elemento senz'altro affascinante, indagato nel corso del tempo da molte forme d'arte. Gauguin diceva: chiudo gli occhi per vedere, e come lui tanti altri hanno cercato di affrontare il bello e il brutto, il disagio e l'agio che il buio può dare. In rete si trova anche qualcosa di molto interessante, che sono i tuoi racconti di Blind Date, del concerto al buio che hai fatto qualche mese fa. Un esperimento interessantissimo per un musicista e per il pubblico. Sì, è un esperimento estremo per certi versi, cioè non ha nulla, innanzitutto per chi mi conosce, non vuole essere niente di circense o di dimostrazione di chissà quale bravura o meno, semplicemente io che cosa faccio? Sfrutto il buio dal punto di vista registico e creativo, cioè dal momento in cui mi immergo e immergo il pubblico nel buio assoluto, uso questo piccolo espediente per riuscire, per cercare di capire dove le mani senza vedere possono andare. Il pubblico che ha voglia di vivere con me questa esperienza è un pubblico che mi piace tantissimo, perché accetta il gioco, perché sa che si deve mettere in gioco anche lui, sai che chi può avere paura, chi può avere magari qualche accenno di claustrofobia o meno, insomma anch'io lotto contro le mie paure in questo senso, ma questa è la sfida e secondo me vale la pena farla. Ho capito che il buio è per me una sorta di liquido amniotico nel quale tornare e nel quale riuscire a dare forma e nuova luce alle immagini che ho via via sotto le mie dita. Il successo internazionale, ma soprattutto italiano, di alcuni pianisti solisti. Tu hai detto potrebbe essere un po' come l'effetto dei tre tenori, che tutti dicevano avrebbe aiutato la musica operistica e non è stato così. L'hai detto davvero? Quando nascono in ogni ambito e ciclicamente, ogni 2, 3, 4, 5 anni, determinati fenomeni che allargano magari un certo tipo di mercato, di pubblico o di fasce, così si dice sempre che tutta questa cosa in realtà poi serve per portare comunque pubblico alla grande musica, altre cose. Mi ricordo uno studio di diversi anni fa, appunto quando tu citavi i tre tenori, dati alla mano, mi ricordo che era venuto fuori che non è che si fossero vendute più copie di Traviata o di Bohème. Questa cosa sarebbe molto più interessante se fosse supportata da una politica tout court. Vogliamo incominciare a far sentire in prima serata determinate musiche, determinate orchestre, determinate opere. Ecco, proviamoci, vogliamo insegnare in maniera diversa la musica a scuola. Benissimo, allora tutte queste cose messe insieme nel giro di 5, 10, 15 anni si formano senz'altro una generazione che sarebbe molto, molto, molto più avvezza a riconoscere quando un fenomeno ha senso oppure no. E quando un fenomeno è realmente musicale o ci sono tanti altri fattori? Esatto, esatto, questo ma sai, questo da sempre, dal rock alla classica, a qualunque tipo di musica, ma anche nei secoli scorsi, non dimentichiamoci, cioè tutto il mondo, anche ai tempi di Mozart, era pieno di gaglioffi che si vendevano, sapevano vendersi bene, ma fa parte, e sarà sempre così, sarà sempre così. Voglio sapere se è vero che sei un improvvisatore in cucina specializzato in risotti. Sei di Vercelli, non deluderci. Io non so dove tu abbia trovato questi. Sì, in effetti sì, lo ammetto, nel senso che io spesso dico di essere un cuoco prestato alla musica, quindi in realtà sì, in realtà saranno le zanzare e le risaie che mi hanno forgiato a dovere, e nei risotti ci metto spesso molta improvvisazione, sì. La voce in scena di oggi era quella di Cesare Picco. Ci ritroviamo domani alla stessa ora. Da Marta Cagnola ancora l'augurio di una buona giornata.